secondo vorrei ricominciare, riscrivere la storia prima della sua fine. Eppure solo adesso io sento dentro il petto una forza che non puoi spiegare. L'arte della parola è solo retorica, il fiume che sfocia nel mare è solo la logica. Quella goccia che scende dal viso si chiama lacrima, e quest'infinita magia arriva dall'anima. È qualcosa che non sai cos'è, qualcosa che non sai com'è, qualcosa che continua a scorrere. Nonostante 100 giorni che non bevo più, nonostante la paura di sbagliare ancora, questa forza continua a salire oltre queste parole, non c'è da spiegare. Musica nelle orecchie di un gay, una lesbica, un etero, è musica. È la vita che scorre veloce come un treno, la musica. Un bambino che tiene per mano sua madre, è musica. Il dolore, la forza di alzarsi di nuovo, è musica. La verità di questa vita è che non c'è una verità in questa vita, medita, sono il tuo rimpianto più grande, come per l'ignorante la lira. Collegate il filo che lega le persone, qualcuno l'ha tagliato, bisogna ricucire. Anche da un fondale possiamo risalire, un mondo un po' malato, necessità di cure. Ridere di gusto, non trovarci gusto, non so dirti cosa è giusto in questa vita, forse il volo di un'aquila nel cielo, che non ha paura del domani perché pensa alle sue ali. Ho chiesto allo specchio chi è il più bello di questo reame, mi ha detto che forse non c'è la bellezza reale, quella interiore. È qualcosa che non sai cos'è, qualcosa che non sai com'è, qualcosa che continua a scorrere. Nonostante 100 giorni che non bevo più, nonostante la paura di sbagliare ancora, questa forza continua a salire oltre queste parole, non c'è da spiegare. Musica nelle orecchie di un gay, una lesbica, un etero, è musica. È la vita che scorre veloce come un treno, la musica. Un bambino che tiene per mano sua madre, musica.